se ne può più. Mia moglie stringe fra le braccia un bel bambino lucido da caccia. Di questi tempi non ci sono santi, con tanti ladri è meglio stare pronti. Di qui non uscirò e questa casa non la mollerò. Presso la porta s'aprirà, un poliziotto ci sorriderà, ci chiederà se per favore vogliamo scendere in un paio d'ore. Nei locali della zona autonoma Milano, dagli studi di Radio ZAM, grazie al supporto di Unite a Club, trasmettiamo in diretta la decima puntata di Pillola Rossa. E sentiamo l'imperatore col ventre duro della nazione. Cara corrispondente da Firenze di Pillola Rossa, ti chiedevamo un tuo contributo sulla giornata della memoria. Cosa ne pensi? E non trovi che sia un po' forzata, perché si parla solo di ebrei, non di zingari, antifascisti, che ne hanno massacrati a milioni? Un tuo contributo, grazie. Allora, caro Muki, ti rispondo con la mia solita schiettezza e la mia, no, immoralità, ma amoralità. Penso che la giornata della memoria sia importante per ricordare l'orrore. Purtroppo questo orrore lo viviamo tutt'oggi, al giorno d'oggi, sotto altri punti di vista, sotto altre spoglie. Ma se la giornata della memoria serve per ricordare l'orrore, l'orrore ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Purtroppo credo che sia diventata qualcosa di anacronistico, per quanto l'orrore non passi mai di moda. Anacronistico nel senso che la storia non è magistra vitae. La storia ci insegna che non è maestra, perché si ripetono fottutamente gli stessi errori. Quindi, con tutto il rispetto per la storia, per ciò che è successo, sono profondamente invece amareggiata e delusa per il fatto che questa storia non ci abbia insegnato niente e che ad oggi siamo tutti testimoni, fautori, complici di un grande orrore. Il giorno della memoria per noi italiani è quello in cui ci ricordiamo che da 2 anni a questa parte lo Stato di Israele ha sterminato 70.000 persone, tra uomini, donne e bambini. Con la scusa di distruggere un gruppo terroristico che negli ultimi 15 anni ha trafficato con gli apparati israeliani per sottomettere e sfruttare una popolazione inerme, oltre che distruggere la legittimità di un governo laico che esisteva già prima. Ci ricordiamo tutti i giorni che sterminare una popolazione inerme e rubargli la terra è uno dei peggiori crimini dell'umanità. We'll be right back. Allora, siamo tornati alla decima puntata, seconda del 2026. 2026 che è iniziato con una parola sostanzialmente, che è ice, che qua diciamo che è il ghiaccio delle Olimpiadi, ma più che altro è che ci sono queste truppe americane d'avanguardia che nell'assassinaggio. Allora, sono già a Roma, nel senso che sono sempre stati a Roma in maniera permanente, e quindi la notizia sostanzialmente che arriveranno, sì, l'hanno detto, ma ci sono sempre stati sostanzialmente. Si parla del nucleo investigativo, non si parla degli agenti in sommossa, ma questa cosa qua ci dà un po' da pensare. Sono già ovviamente famosi negli ultimi giorni per cosa? Per omicidi a sangue freddo sostanzialmente, di gente inerme e cioè impensabile, non armata, nonché dell'arresto di un bambino di 5 anni, ho detto anche, quindi cose senza senso. La CNN, notizie dell'ultimo momento, ha comunque diciamo pubblicato questa notizia secondo cui una loro circolare permetteva di entrare senza mandato in casa, sostanzialmente. Voglio ricordare per quanto riguarda Milano, giusto? E ricordiamo per quando rimarta di Milano. Io stavo facendo un quadro generale dell'ICE, chi sono e dove sono, che in piazzale Accursio, che c'è il nuovo consolato americano in costruzione da 5 anni e c'è in costruzione la base dell'FBI, ecco, puntini. Andranno lì? Non lo sappiamo, ma ipoteticamente saranno un po' ovunque. E una delle ultime notizie è che, tra l'altro, tra i componenti di questa banda di terroristi interni ci sono quelli dell'assalto di Capitol Hill. Capito? Quindi è sempre la banda del ciuffo ciuffo, ecco, diciamo. Qua a Milano, insomma, ne parlano già tanto su questo, quindi non aggiungiamo più di tanto che già se ne parla a iosa. Detto questo, un bel bordel. Veramente un bel bordel. Si aspetta. C'è un po' di, diciamo, organizzate sono le contro olimpiadi, tra virgolette, no? Dal 5 all'8 c'è, cioè, una grande, insomma, movimentazione a Milano. Ciao. E quindi sarà molto interessante vedere se si spunteranno fuori, perché insomma sono delle manifestazioni che riguardano diciamo la giornata di inaugurazione, che riguardano la presentazione in Piazza della Scala, sono giornate che riguardano anche le utopiadi che vengono organizzate l'8 febbraio. Ragazzi, dopo Ricky Gianco e gli Officine Schwarz è proprio un bel bordello. E ce lo dico. Roma, questa storia, obbligo morale, russo rospizdoto maniacale e paranormale. О солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да-да-да-да, в посольствах США отказ. Там недалеко от Рима есть город Палестрина, звезда периферии, вся маслина, стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов. Без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился Гекату, и о Борка Мадонна, где тритворный подъезд или этот отъезд, тело мусора провода. Сантагедия у меня мадре, ау, крещендо параноя. Конечно, флиртовал, но и семье помогал. А я на Римской мостовой, я лежал, ждал бы бой. Ой-ой-ой-ой, я так бросил пить, оттуда еще лишь папа. Я с детства его хотел замочить, ох, оролинелый. Я вам доказывал не раз, что музыканту во время кайфа Санта Маринелли вгрызалась нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя. Но вот как-то однажды, не знаю уж как, пришло и нам добро и заклинье. Тогда на расходняк. И тогда на расходняк. Speciale Olimpiadi Milano Cortina. Ecco quale sarà il vero lascito di questa operazione immobiliare dei palazzettari. Nuove salatissime multi a punti ai cittadini in auto con i nuovi T-Red. Nessuna struttura sportiva per la cittadinanza, affitti delle case alle stelle, suolo edificato regalato ai privati. Chi pagherà tutto ciò? Noi. Sono già attivi alcuni dei nuovi T-Red semaforici negli incroci più congestionati della città, dove tra le 17 e le 20 è già molto probabile rimanere bloccati involontariamente nel bel mezzo dell'incrocio. Ecco quindi il sistema sala per rimpinguare le casse del comune. Una di queste macchine è già attiva in zona sud tra via Lampedusa e via Antonini. A essere sanzionato sarà anche la violazione della linea d'arresto, oltre al passaggio con il semaforo rosso. Naturalmente sul web non si trova alcuna comunicazione in merito alle nuove installazioni. Anche le corsie preferenziali nei tratti prospicenti il villaggio olimpico e le relative strutture saranno interdette alle moto e alle biciclette dal 2 febbraio al 18 marzo da Piazzale Lodi a Viale Scarampo. Buona fortuna. Ragazzi, abbiamo una telefonata in linea, abbiamo, sì, sembra che abbiamo una telefonata in linea, non abbiamo gli ospiti in studio, una telefonata in linea. Sì, Belluno si sta connettendo con i nostri mezzi potenti. Vai Belluno. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Grande. Tu? Ti sento. Allora, ci sarà un po' di rimbombo, probabilmente. Prova a mettere le cuffie. Io ho la tosse. Sì, è che abbiamo le casse aperte, c'è un ritorno in cuffia. Adesso tolgo che non abbia più ritorno e vai alla grande. Ok, mi senti? Sì. Ok, allora, e niente, abbiamo invitato Sara sostanzialmente per fare una chiacchierata riguardo alle Olimpiadi, perché ha avuto un'esperienza diretta, no? Giusto? Sì, di un giorno, ma sì. Un giorno intenso che ha fatto capire un po' l'andazzo, insomma, no? Sicuramente sì, per come, per il mio punto di vista e quello che io ho sentito come scomodo e poco chiaro. Allora, facciamo un piccolo riassunto, cioè Sara diciamo sta cercando lavoro e di conseguenza cioè in questo periodo a Milano c'è tanta richiesta per le Olimpiadi, quindi riesci a metterti in contatto, giusto? Allora, più o meno, nel senso, io non sono driver, però è un periodo così complicato per trovare il mio... quello, un lavoro che sia quello che so fare, che appunto lavorare con i ragazzi, progetti educativi, eccetera. Però ho risposto così, un po' tra virgolette, un po' per distrazione. Chiaro, sì. Un annuncio di questo pecunia. Lavoro di 20 giorni che diceva appunto driver, 2200 euro, e quindi così per scherzo un po' ho mandato il curriculum. E sono stata contattata e lì ho scoperto che era per le Olimpiadi, per cui non lo sapevo prima. E quindi avrei dovuto fare la driver per clienti che arrivano a Milano e vogliono essere, insomma, portati in vari posti durante la giornata e anche se no a Cortina per seguire l'evento, eccetera. Quindi sostanzialmente ti sei presentata qualche giorno fa, giusto? Ma allora, inizialmente c'è stata una grande attenzione a WhatsApp, nel senso che nel giro di un giorno avevo già 6 gruppi e due referenti, molto gentili, niente da dire su questo, nel senso ragazzi che stavano mettendo l'impegno, sono tutti ragazzi giovani. Poi l'altro giorno sono andata l'altro ieri sono stata al primo mm-hmm. giorno di formazione, perché prevedeva 2 giorni di formazione retribuiti e poi si partiva col lavoro effettivo, e la prima mattina è stata dedicata a tutto quello che era quello che comportava, insomma, c'era tutto un momento di utilizzo continuo, costante tutto il giorno di questo cellulare aziendale, dove bisognava segnare i percorsi, trovare il cliente, insomma, sì, cioè molto un monitoraggio, no? Tutto molto controllato e anche un po' a misura solo di cliente. Per esempio, sono vado, basito, io parlo, ti dico tutto. Sì, siamo basiti dalle tue notizie. No, perché poi ci sono state comunque delle cose tipo, insomma, sono programmate 10 ore di lavoro al giorno, di cui 9 effettive, una non pagata perché sei in pausa, e quest'ora qua te la devi comunque ritagliare quando il cliente non ha bisogno di te. Non è che tu a un certo punto hai fame e ti vuoi fermare, ti puoi fermare, no? A qualsiasi ora, insomma. Se... La schiavitù per debiti che prosegue il suo corso nella storia. Sì, beh, poi vi dico queste cose e poi penso che ognuno senta insomma, delle critiche, delle osservazioni personali, però comunque 9 o 10 ore di lavoro, sì, va bene, perché a volte hanno detto anche di più, pagati, però vabbè, anche questo non era molto chiaro, perché poi la mezz'ora, le più quarti d'ora, possiamo no? chiederti l'importo? Cioè, lo stipendio. Ma allora, facendo i conti, alla fine sono 8 euro risicati. 8 euro all'ora? Sì, neanche in verità, perché vabbè, poi hai tutte delle responsabilità pazzesche, del tipo la macchina devi tenerla pulita, quindi a tue spese. Devi lavare. Poi invece, se devi fare benzina, hai una tessera loro. Per cui hai già anche questa, diciamo, responsabilità di comunque, cioè, come se fosse la tua macchina, c'è, no? In qualche c'è modo. Tu... E quindi va tenuta, sono macchine grandi, automatiche, tutte nuove, sono furgoncini, così, che forse funzionano bene, però non puoi entrare in zona ZTL, devi fare attenzione, se prendi le multe sono a carico tuo. O comunque le responsabilità per incidenti o robe parzialmente sono anche tue, quindi c'è un contratto lunghissimo e che poi cioè, leggi bene con attenzione e non sei certo. Non è un contratto, secondo me, che ha che rispecchia le responsabilità che hai, ma neanche quello che ti pagano, perché comunque voglio dire, se poi c'è stato detto anche una cosa che è stata un po' particolare adesso a parte la retribuzione, è stato che non potevamo parlare con i clienti né di politica né di situazioni attuali e nemmeno ascoltare musica. Ah, c'è una censura. Poi non lo sa, uno tutto il giorno ha lo schermo davanti. Neanche la parla musica. Per... Eh? Neanche la musica. No. Poi, perché la musica è politica, mio caro. Io ho pensato magari poi se chiedi a un cliente posso accendere la musica, magari ti dice anche di sì, però a me sembra veramente assurdo che ti diano delle regole di questo tipo. Scusami, che non puoi, però non puoi parlare di cosa vuoi, Sara, dire. Mi senti? Se no puoi essere segnalato. Sara, mi senti? Dimmi. Sì, Ale, no. Scusami. Ciao, no, Nettuno. Signor Nettuno. Ale, Nettuno. Volevo chiederti, perché era abbastanza allucinante, nel senso, la contrattazione delle, non chiamiamoli neanche lavoratori, degli sfruttati su questa Olimpiade, che in realtà è un, come si può dire, con quest'eco nelle orecchie, una roba tremenda. Allora, non so, loro hanno preparato un'Olimpiade in cui i lavoratori vengono sfruttati alla base stessa del diritto dello statuto dei lavoratori. Non so come spiegarmi. Cioè, tu stai dicendo che ti ha fatto firmare un contratto che non rispecchia le responsabilità che ti stanno dando, e quindi, oltre a essere sottopagata, oltre ad avere delle indicazioni militari, perché il fatto che tu non possa parlare di politica, di musica, è assurdo. Sei in zona di guerra, no? Cosa vuol dire? Non ha nessun senso. E in tutto ciò alcune cose sono esenti dal contratto, quindi in nero. Quindi queste Olimpiadi, pubblicità mondiale, investimenti, miliardi di soldi, è tutto bello, è basato sulla fogna, se posso permettermi di dirlo. Cioè... Ah, questi poi, tra l'altro, cioè, nel senso, sono, cioè, c'è una marea di volontari... Tra l'altro, e no, infatti mi stavo sì, chiedendo chi non erano i volontari, cioè quelli pagati, e adesso scopriamo che sei te, che sono i lavori che sono estremamente sfruttati e senza garanzie. Un'altra e poche cosa persone curiosa. Pagate sì. sono sei te praticamente, Sara, cioè nel senso, dici, sei l'esempio, Sara. Scusa, non ho capito, dici. No, dicevo un'altra cosa curiosa, così Sono passata niente, aspetta. Oh, mamma mia. Aspetta, cosa volevo dire? Vabbè, a parte colleghi, ho incontrato dei colleghi, secondo me fuori di testa, nel senso, vabbè, qualcuno faceva file driver già per persone cantanti, così, vabbè, ma qualcuno veramente esaltato, che era felicissimo di lavorare per sia di, come dicete, no, come quasi un volontario, che così, proprio come se dovesse fare una missione, questa cosa è un po' così, No, no, fatto immagino che pensare, fa mi ha fatto curriculum. pensare. E poi c'è un'altra cosa che volevo dire, adesso mi è passata di mente, magari mi torna in mente, che Però però mi quindi. ha veramente fatto strano. E così anche perché, per esempio, il primo giorno alla sera è stato fatto un giro di prova e c'erano gruppi di quattro, e siccome io avevo una macchina grande da 9 posti, hanno fatto guidare me, io ho portato 4 colleghi, e tutti e 4 i colleghi, alla mia domanda, ma secondo voi è giusto che non possiamo parlare di quello che vogliamo? La risposta è stata assolutamente sì. Certo. Sì, perché comunque il cliente, deve stare tranquillo, non può, cioè non si possono creare discussioni magari dove ci sono delle divergenze, per cui erano d'accordo. Certo che se un tragitto è Milano-Cortina, 4 ore, che sarà 4 ore Milano-Cortina, Come no? minimo. Come Si può minimo, anche dormire là. Che si può anche dormire là, ma gentili. in questi nel furgone? No, no, Non lo c'è, so, c'è. penso di no. No, nel senso che in 4 ore poi O anche in chiaramente un giornata. po' di musica, un po' di conversazione va da sé che cioè, dovrebbe Vabbè, infatti è una uscire, situazione alienante, nel senso, non ho capito, io. Mi è sembrato tutto un po' alienante anche il fatto appunto di avere, tra l'altro non è che poi finisci e vai a casa e te vai a dormire, perché finisci e devi fare tutto il tracciato della giornata, e non è compreso nelle ore di lavoro, dopo che tracci tutto quanto e mandi la tua mappatura della giornata, devi e comunque dettagliare il lavoro. devi arrangiare nei tempi, poi dopo, alla fine della settimana, in più devi ancora mandare degli slide dove tu confermi tutti i tuoi tragitti della settimana, per cui è come, non so, un professore che si porta a casa i compiti in classe da correggere, però Però potresti nel rapire la senso squadra USA. non ho Oltre capito. no. alle ottime idee. Cioè, le condizioni di sfruttamento abissali di cui stai parlando sono vergognose. Ma io direi che Vero, ma la anche cosa. secondo me, cioè, infatti io non ho rinunciato, ho detto ma poi ti immagini lo stress di stare 10 ore in macchina, Modello Amaz. non Ma la puoi, cosa. evitando le zone ZTL, che tutti gli hotel sono, o comunque devi avvisare subito e se loro non ricevono, cioè tutto un casino, e comunque non sono stata l'unica a rinunciare, so che anche altre persone se ne sono andate. E C'è tanto ecco la cosa stress, curiosa, certo. che se tu decidi di non andare più, non hai né penali né niente, puoi recidere, recidere, il contratto in qualsiasi momento. No, ok, però aspetta, al di là delle condizioni di sfruttamento vergognose che ci stai descrivendo, secondo me la cosa veramente preoccupante è che invece c'è uno stuolo di zombie, io li chiamerei, che sono esaltati nell'essere schiavizzati e credere a qualcosa che non ha senso, e però cioè sono, come dire, soldati del nulla che Dell'impero. soldati del nulla che gratuitamente si sperticano a distruggere il mondo. No, Anche delle questo è quello persone che mi del spaventa sud di che più di sono quello che venute hai su hanno detto. affittato le case a 500 euro e comunque stanno nei custi. Come? Scusa? Non so, ho conosciuto un paio di ragazzi, uno cioè, del sud, sono venuti su apposta per fare questo lavoro e hanno affittato una casa a Quindi Milano a appunto si 500 pagano pure la euro. casa a Milano. 600 euro a letto o 600 euro tutta la casa perché per le Olimpiadi No, c'era a la casa? letto in casa con altre persone. Allora, per le Olimpiadi, i lavoratori, non tutelati che prestano opera, affittano un posto letto a 600 euro al mese. Non c'è la famosa formula vitto alloggio. No, non c'è neanche, visto che parlava dei compiti. No, non c'è, ma non c'è, neanche, non c'è neanche il pranzo, capito? Neanche il pranzo. Però che dici, oh ragazzi, è mezzogiorno, potete starvi in un'ora tranquilli e nessun cliente vi romperà. Cioè, comunque, no, se tu, ci sei stato chiaramente detto, se il cliente alle 2, mezzogiorno va a mangiare, beh, una bella fortuna, e se no, se va alle 3, siete ancora impegnati, vabbè, mangerete alle 4. Ripetiamo, ripetiamo perché... Sembra strano, ma sei un driver e Milano Cortina sono 4 ore, quindi se tu non hai neanche integrato il cibo, andate e ritorno sono 8. Ma senza contare che molte gare magari sono in notturna e quindi tu sostanzialmente torni a casa, cioè vai a Cortina di notte magari a portare le persone, no? Cioè... Vabbè, sono orari diversi. Sono orari diversi, certo. Piano degli... Comunque sono sempre 10 ore minimo. Pranzi alle 5 di notte. E poi anche la modalità, trovi l'inserzione su Indeed 2002, 23 giorni. E poi a gratis a casa componi il programma della settimana lavorativa per ore e ore dopo le 10 che hai fatto. La va bene, Sara. Assicurata. È stato più che sufficiente, abbiamo tutti il vomito. cioè, te sei baciata da noi per tutti, Sara, i contributi. Quando che vuoi, dai, puoi venire in trasmissione, sappilo. Grazie. Grazie per questo spazio di. Così, di denuncia sociale. Grazie per insomma il contributo live e vissuto le Olimpiadi di questa... gente meditate di questa cerca di lavoratori per le Olimpiadi. Va bene, ti lasciamo, grazie. Dai, ciao. Bella. Sara, un bracione, ciao, buona serata, ciao. Forte casone con uno stemma a rete, una cupulella che vi si era alzata, passa scampagnando la pattuletta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napulitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napulitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll. Io Parco delle Cave e la storia che mi scorre accanto. Io sono il Parco delle Cave. Sono nato da scavi profondi, da mani che negli anni venti del secolo scorso cercavano sabbia e ghiaia, senza immaginare che un giorno quelle ferite sarebbero diventate acqua. A poco i miei crateri si sono riempiti di laghi e i laghi si sono riempiti di vita. Poi, alla fine degli anni 90, sono cambiato davvero. Sono diventato paesaggio, comunità, respiro. Oggi i miei 135 ettari vivono tra Baggio, Barocco, Quarto Canino e Quinto Romano. Nel mio ventre verde convivono orti, radure, sentieri ciclabili ed equestri, zone umide, boschi nati intorno ad antichi fontanili. Sono un parco urbano, sì, ma anche una porta aperta sul Parco Agricolo Sud, un raccordo di natura, memoria e futuro. Ma non sono solo. A nord-ovest, quasi come un fratello silenzioso, c'è il parco di Piazza d'Armi. La sua storia è diversa dalla mia, ma ci somiglia. Anche lui ha conosciuto l'abbandono, la trasformazione, la rinascita in attesa. All'inizio del Novecento era una cittadella militare. C'erano i dirigibili, le caserme, i magazzini, le esercitazioni con i carri armati. Poi con la dismissione il tempo ha fatto ciò che solo il tempo riesce a fare, ha ricucito le ferite. Lì è nato un bosco spontaneo. Sono tornati gli uccelli, le radure si sono aperte come stanze d'erba, sono comparsi i frutteti custoditi dalla memoria degli abitanti, attività agricole, prati ricchi di biodiversità. Piazza d'Armi è diventata un piccolo miracolo ecologico, un polmone inaspettato dentro la città. Per anni la sua sorte è stata incerta. Progetti immobiliari troppo grandi, troppo densi cercavano di rosicchiare il suo spazio. La sua difesa ha portato al riconoscimento di vincoli paesaggistici, limiti edificatori, tutela della sua natura ibrida. Un luogo che non è né parco formale né area selvaggia, ma entrambe le cose insieme. Nel 2020 il piano di governo del territorio ha destinato la maggior parte della sua estensione a parco urbano, preservandone il valore ecologico. Non tutto è stato salvato, ma molto sì. E soprattutto si è affermato un principio fondamentale. Il paesaggio non è un residuo da sacrificare, ma un bene collettivo. Girarmi a destra e non bevo acqua. I reni stanno una merda. C'ho il raffreddore, la febbre da almeno un mese. Chiamo un dottore, perché ho bucato un polmone. C'ho il cortisone dentro ogni pantalone. Quando vado in ospedale sanno tutti già il nome. Ma non mi passa, però pago nei paghi da qualche bestia. Volano calci e pugni sotto la cassa. Ma se ti fermi e mi guardi un po' bene in faccia, io sto una favola. Nella caviglia mi ci hanno sparato un chiodo. C'ho una bottiglia di gin, una birra e una di sciroppo. Che ho la tosse, la gastrite per l'ansia, a volte la notte mi viene il panico e l'asma sempre più forte. Mi sembra che non respiro quando piso. Se piso sangue per il tetticcio, mio amico non mi passa, però pago nei paghi da banca bestia. Volano calci e pugni sotto la cassa. Ma se ti fermi e mi guardi un po' bene in faccia, io sto una favola. We'll be right back. E l'orco, ad un certo punto, prese la fata e la Maltano. Che cosa, mamma? Perché le fate hanno la bacchetta magica, ma scelano. Non ho capito, mamma. Quando il lupo e il Delia, tutti i nani infalastano. Ma che dici, mamma? Amore di papà, cosa ti sta leggendo la mamma? Non lo so, non ci capisco niente. Sto leggendo Il principe, l'orco e la Maltano. Il principe, l'orco e? E la Maltano. Ti spiego, sono le nuove fiabe malana. Fiabe che? Già, fiabe che? Nuove fiabe Maltana, una collana speciale di tutte le più belle fiabe del manto. Il piccolo Beltan, il gatto Lemmeteppi, Metando il drago, il principe delle Metassi e altre ancora. Questa settimana i tre piccoli animati. Fiabe Maltana, per dire ancora, c'era Valeria. Mamma, mamma, ho sognato Maltani. Ma lo sa che le Maltani non esistono? Vero. Il segreto della bibita nera è complesso, è tramandato dalla scorsa era ai figli di adesso. Ho visto cose che non si possono comprare, per il resto solo un mezzo ha messo un prezzo all'universo. Ma il segreto della bibita nera non ha prezzo, il sesso e il successo si avvera se l'apprezzo. Vedo cose che non si possono comprare, per il resto solo un mezzo ha messo un prezzo all'universo. Se il mondo cade a rotoli non te ne accorgerai, ci hanno messo rotoli che non finiscono mai. Bel periodo di gavetta, amaro a manetta, che vuoi di più dalla vita? Non so, l'avrai una sigaretta. Se lei mi invita a casa per un tè, le dirò: è buono qui, è buono qui. Dirà: c'è stato un qui pro quo. Non investire i tuoi quattrini se hai interessi da paghetta. Se cucini bastoncini friggerai la sirenetta. Sotto la muraglia cinese un passante risponde alla domanda palese del vigilante. Ha un carico pesante, rispondi alle domande. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Sei classe perché i tuoi si sono fidati della FAO. Se mangia questo schifo neanche un gatto fa più miau. E resterà un graffito, un grande ciao, perché eri intollerante. Ma c'era più latte e meno cacao. Vivo perché se muoio non posso comprare. Se il mondo ha mosso un imperativo, comprare. Sbaglio o quando i soldi non si possono contare, vanno in cose che non si possono comprare. Vivo perché se muoio non posso comprare. Se il mondo ha mosso un imperativo, comprare. Sbaglio, ma quando i soldi non si possono contare, vanno in cose che non si possono comprare. Nel nuovo social network saranno tutti anziani. Il telefono ha trovato casa e vincono i marziani. In cucina ti si sono storti tutti i ripiani. Se ci fai sesso con la donna più amata dagli italiani, il mondo si arroventa per chi non si accontenta. Ma c'è più gusto ad essere svizzera o micosceta. Vorresti crocefiggerci con la tua guerra lenta? Se in offerta c'è una sparachiodi dal tuo ferramenta. L'ultima cosa che vi chiedo è bere un caffè. Caffè è un piacere, e se non è buono che piacere è? Ve lo faccio meglio io usando l'acqua dello scarico. Indovino da che lato il bicchierino ha il manico, eh? Spero solo che la birra c'è per me. Se no tra un po' dell'acqua ti divento un sommelier. Egalité, fraternité, bella per te, per tutti quanti. Ma compra una padella se vuoi farti quattro salti. Vivo perché se muoio non posso comprare. Se il mondo ha mosso un imperativo, comprare. Sbaglio o quando i soldi non si possono contare, vanno in cose che non si possono comprare. Vivo perché se muoio non posso comprare. Se il mondo ha mosso un imperativo, comprare. Sbaglio, ma quando i soldi non si possono contare, vanno in cose che non si possono comprare. Mamma, eh? Dov'è finito papà? Dov'è finita la bambina in quella pubblicità? Dov'è che arriva la bolletta dell'elettricità? Quant'è che inzuppano le stelle di ogni bella città? Dove c'è pasta c'è casa, che è una minaccia. Ma la mangia dal barbone al magnaccia. E non si ritrova una casa ma una gran pancia. Sculaccia chi ha la faccia come il culo, ma si spaccia come uno che si è fatto il culo e adesso c'ha la faccia. Qui non ci si diverte, qui non si raccomanda. Qui non importa più chi sei, neanche chi ti manda. E se vuoi rapinarla rispondiamo a ogni domanda. Ma entra insieme a tutta la tua banda nella banca. Qui non ci si diverte, qui non si raccomanda. Qui non importa più chi sei, neanche chi ti manda. E se vuoi rapinarla rispondiamo a ogni domanda. Prima entra insieme a tutta la tua banda nella banca. Vivo perché se se muoio non posso comprare. Se il mondo ha mosso un imperativo, comprare. Sbaglio o quando i soldi non si possono contare, vanno in cose che non si possono comprare. Vivo perché se muoio non posso comprare. Se il mondo ha mosso un imperativo, comprare. Sbaglio, ma quando i soldi non si possono contare, vanno in cose che non si possono comprare. Dovrei fare qualche nome, se no nessuno potrà mai conoscere rancore di DJ Mike e Svedonio in questo film senza interruzione. Allora facciamo un riepilogo dei pezzi che abbiamo trasmesso fino ad ora. Già detti Ricky Gianco e Fecine Svarts, già detto o chi voleva capire l'ha capito, il Gogol Bordello, è seguito Renato Carosone, poi Nasca e questo era il Rancore con DJ Mike. È morto raggiunto da spari esplosi dalla polizia in Borghese lunedì a Milano. E adesso e qui a Milano hanno ammazzato la Cistifelle ieri Gabri. E qui a Milano hanno ammazzato ieri un marocchino, la polizia gli ha sparato in fronte. E cosa ne pensi della repressione poliziesca? Non trovi che stia aumentando con questo governo? Si va sempre peggio? Per quanto riguarda il secondo quesito che mi hai posto, ovvero sul fatto che questo governo, un governo violento e che gli organi di polizia siano violenti, purtroppo non è una novità, anche questo ce lo insegna vecchio Cucchi, ma non solo lui. A Firenze diversi anni fa, che saranno almeno una decina d'anni fa, Riccardo Magherini moriva sotto mano della polizia, un ragazzo che era un uomo sotto l'effetto di probabilmente stupefacenti o comunque era in uno stato alterato, che non stava facendo del male a nessuno se non urlando per una strada, fu aggredito dalle forze dell'ordine che per calmarlo lo uccisero. Questa vicenda è stata al vaglio poi della giustizia. La giustizia finalmente ha riconosciuto dopo 10 anni che quello di Riccardo Magherini è stato un omicidio compiuto dagli organi di polizia. Ci vuole del tempo forse, ci vuole ancora, c'è bisogno di lottare affinché queste, mi viene da dire, merde, passami il termine, chi abusa del proprio potere venga poi punito, perché non sono casi isolati, sono casi che si verificano e soprattutto quando poi c'è una famiglia come quella dei Magherini che magari ha istruzione, due soldi, o come quella di Cucchi dove c'era l'Ilaria che si è data un grande affare affinché giustizia fosse fatta e affinché la verità venisse a galla. Ok, qua si tratta di un marocchino. Lo piangeranno forse a casa se lo sapranno che è morto. Quindi io ho una profonda tristezza, sono anche qui profondamente amareggiata per questa situazione, dove c'è anche un bullismo istituzionale, passami il termine. Siamo vittime di queste istituzioni, di una burocrazia sovrabbondante, proprio di questo, io lo definirei proprio bullismo istituzionale. E dimmi se sei d'accordo. Dai, dai, scritto sì, dai, vinci, nomi, frappi, sì, scritto sì, vabbè, dai, dai, scritto sì, vabbè, sì, dai, dai, scritto sì, vabbè, sì, vabbè, sì, sì, vabbè, sì. Ho visto un re, se lo riscuse, ho visto un re, vabbè, sì, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo, povero re, e povero anche il cavallo, sì, beh, vabbè, sì, beh, vabbè. E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, anche il 32 che lui cena, povero re, e povero anche il cavallo, sì, beh, vabbè, sì, beh, vabbè. Ho visto un vescovo, se la riscuse, ho visto un vescovo, vabbè, sì, vabbè, anche lui, lui, sì, piangeva, sì, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano, la mano di chi? La mano del sacrestano, povero vescovo, è povero anche il sacrista. Sì, beh, vabbè, sì, beh, sì. È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia. Oh, per Cristo! 32 che lui cena. Povero me, scopo. È povero anche il sacrista. Sì, beh, vabbè, sì, beh, vabbè. Ho visto un ricco. Ce l'hai, scusa? Ho visto un ricco. Un show. Sì, vabbè, sì, beh, vabbè, sì, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava diretta al B. Sì, che tutto l'annacquava. Povero tapino. E povero anche il fin. Sì, beh, vabbè, sì, beh, anche sì. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena. Povero tapì. E povero anche il vin. Sì, beh, vabbè, sì, beh. Dai, dai, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Visto un vilano. Sai, scusa? Un contadino. Vabbè, sì, beh, vabbè, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Ah, beh, sì, beh. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il Purcell. Nel senso del maiale. Sì, beh. Ah, beh, sì. Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava. Ma Salemma? No, il fatto è che noi viviamo. Noi Milan è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Abbe! Signor Robert, qual è il suo piano per l'occupazione? Semplice, io e il mio partito diciamo, bisogna creare occupazione, occupazione, occupazione, occupazione. Non importa quale, purché migliori le statistiche, i disoccupati ci lasciano in pace e noi ci riempiamo le tasse. Allora io ho un'idea, propongo di inventare un nuovo lavoro. Ah sì, quale? Un mestiere facile, senza investimenti, materia prima abbondante. E non totalmente gratuito. Possono farlo tuttissimi. Anche i disoccupati. Soprattutto non è richiesta alcuna qualifica, si può assumere in massa, si elimina la disoccupazione e si avranno statistiche favolose. Ma che cos'è? Mangiatori di merda. Mangiatori di merda? Sì. Mangiatori di merda. Sì. È vero, la materia prima è gratuita. E può farlo chiunque. È vero, i disoccupati ci sono già abituati, sì, ma il problema è... A cosa serve? A niente. E allora? A chi importa che serva qualcosa se migliora le statistiche? Come? A chi importa che serva qualcosa se migliora le statistiche? Sì, è vero. Una bella campagna per valorizzare l'immagine del mangiatore di merda. Io ho delle azioni di un'ottima agenzia. Loro mangiano la merda e in cambio gli si dà qualche briciola. Le briciole non costano care, sono i soldi delle loro imposte. E tutto continua come prima. È perfetto. Dico, con tutti gli aiuti sociali che ricevono non vorranno chiedere anche un lavoro che serve a qualcosa. L'arroganza ha un limite. Sì, l'altro giorno ad un meeting un tizio mi ha detto: se si demolissero gli edifici brutti e si ripulisse il pianeta, ci sarebbe lavoro per tutti per 500 anni. Se ne rende conto? Ma chi è questo pazzo? Che cos'è che non gli sta bene? Dove si andrà a finire così? Perché non cambiare tutta la società, già che ci siamo? Sì, già che ci siamo. E fra l'altro se servisse a qualcosa saremmo i primi ad essere presi di mira. Non ne parliamo nemmeno. Per carità, no, no, non si cambia niente. Mangiatori di merda, è perfetto. Avanti disoccupati, al lavoro. Al lavoro. Ma che cavolo stanno dicendo quei... Allora, quelli di prima, insomma, il commento di prima, giusto per dare un po' del merito e del chiarimento, era... Il fegato del paese, insomma, quello che... il dice... fegato marcio del paese, marcio di rabbia. Marcio di rabbia, che non ci sta a tutta questa informazione falsata. Perché lo sappiamo come è finita. Io leggevo oggi sul giornale, da qualche parte, insomma, dalle interviste, cioè... da quello che è venuto fuori, che poi diciamo l'agente in borghese è andato a controllare se invece che chiamare l'ambulanza ha guardato la pistola dov'era, cioè nel senso è stato un cioè ci sono stati dei momenti un po' diciamo equivoci, ecco. E dato che di questi episodi qua ne succedono, e dato che vuoi che siamo nel momento in cui l'ICE c'ha tutte le prime pagine, cioè non ce l'abbiamo già in casa l'ICE. Appunto, non volevo. Bravo. Guarda, inutile, non aggiungo nulla. Era proprio questo discorso. Sì, Iannacci. E adesso mandiamo i Supurated. Supurated! Sì, con Sadomaso Killer. Sassomaso Killer. Ma, diciamo, rende l'idea, no? Rende l'idea, sì. Che si riflette sì nella violenza anche di questi organi di polizia, ma in ogni ambito della vita del cittadino. Tu fai una richiesta, deve passare al vaglio di 2000 procedure e passa il tempo, passa la voglia, passa il bisogno per cui tu hai fatto tale richiesta. Sei vittima di un errore di qualsiasi tipo, devi dimostrare il contrario e comunque non sono cose che si risolvono rapidamente. Sei proprio vittima di un sistema che ti obbliga poi a stare in silenzio, perché al momento in cui tu parli entri in un ginepraio, entri in una condizione dove non vedi la fine, quindi rimani vittima, perché a parlare costa tanto sacrificio, energia, tempo, soldi, e le più volte non viene nemmeno ascoltato. E è una situazione che si riflette in tutti i contesti di questa società italiana, dallo sbaglio di un pagamento che ti viene fatto, che devi fare, a un diritto come lavoratore che non ti viene riconosciuto, a qualsiasi problematico di tipo burocratico proprio, a una procedura che devi fare con l'INPS, cioè proprio invade tutti i nostri campi questo cazzo di bullismo istituzionale. E io credo che dovremmo un attimo riflettere su come abbiamo fatto ad arrivare a questo, soprattutto dovremmo riflettere a proposito di chi abbiamo votato, a chi abbiamo messo in mano questo governo. Il governo è in mano a una che addirittura pensava di fottere la Cina. Gli mettiamo il dazio di 2 euro a pacco ai cinesi. E i cinesi, che sono commercianti da che è nato il mondo, che hanno fatto? Benissimo, cara Meloni. Noi sai che facciamo? Facciamo scalo in Germania e i pacchi li facciamo marciare sul Tiro fino in Italia. E così non ti prendi nemmeno i soldi delle dogane che facciamo agli aeroporti in Italia. Veramente è una grandissima donna, soprattutto una stratega, una, mi sembra che di economia ne capisca moltissimo. Cioè non arrivare a capire che questa voleva fottere i cinesi, ma cosa stiamo dicendo? Ebbene, adesso faranno scalo in Germania, così l'Italia non si becca nemmeno quei soldi che riceveva dall'introito di questi pacchi che arrivavano dall'estero. Signori, il malvoluto non è mai troppo. Il malvoluto grande. Altra pillola. Grande, dal fegato della nazione, dalla cistifeglia della nazione. Ragazzi, vi stiamo mandando comunque notizie chiarificatrici, pillolescamente rosse. Assolutamente. Per farvi vedere la realtà. Dei contributi che ci danno da riflettere, no? Ci danno forza, ci danno forza ragazzi, siamo nella merda. Allora, a proposito di cosa c'è in giro, a parte questi odori di cantieri, per quanto riguarda cosa c'è in giro, continua il giro della proiezione del Grande Gioco, che si fa un vero e proprio tour in questi giorni qua, nel senso che ogni giorno è un posto diverso. Cos'è il Grande Gioco? È un documentario sulle Olimpiadi, su quello che si nasconde dietro alle Olimpiadi, no? E quindi stasera all'Ateneo Libertario, che sarebbe l'ex Ponte della Ghisolfa, diciamo. Ah. E domani alla cooperativa agricola a Cinisello, venerdì dalle parti di Lambrate al Sox, e domenica al Baraonda, lunedì in Torchiera. Quindi c'è questo tour. Una volta dopo a pillola rossa, una volta dopo te, quando e i piedi saranno e invece di cose belle comunque c'è il compleanno di Zam, no? Sabato. Comunque un documentario eccezionale quello sulle Olimpiadi, ragazzi, guardatelo se vi capita o cogliete l'occasione, fino a che noi non riusciremo ad averlo e vi faremo sapere qualcosa, però molto ben fatto e molto fichissimo, sì, un bel lavoro. Sì, perché tra l'altro non per diciamo puntare sempre il dito nella piaga, cioè oggi, notizia di oggi, consiglio comunale 5 milioni è andato alle Olimpiadi subito. Ragazzi, ci difendiamo, sono arrivati gli americani, avete sentito prima come è iniziata la puntata, cioè non è che vi stiamo scherzando, cioè dai, voglio dire, 5 milioni alle Olimpiadi, così, perché si devono finire i lavori, si devono finire, quindi immediatamente e vabbè, la prossima volta vi parleremo di quanto pesano questi sponsor su tutto, insomma. Però piove. Questa è Serafin. La pioggia non vanno avanti. Questa è Serafin. In 10 anni di onorata carriera su Tinder ho incontrato diverse persone. Tra tutti ricordo Richard. Richard, ci siamo visti una sola volta e al nostro primo incontro, dopo avermi squadrata dalla testa ai piedi, aver approvato il mio outfit, mi chiese: ma tu ci vai ai rave? E io risposi: no. E lui mi disse: allora non potremmo mai drogarci insieme. Parlami, parlami, papà, parlami, parlami, bla bla. Parlami dei tuoi scompensi, se ti annoi cosa vuoi, sono tipo da rave. Parlami dei tuoi scompensi, se ti annoi cosa vuoi, sono tipo da rave. Sei una tipa da rave. Con questa storia nel cuore, anch'io, parco delle cave, ho guardato ciò che cadeva dentro di me. Ho visto sorgere al posto di un edificio modesto un cantiere immenso, tre torri di 9, 10 e 13 piani. Un intervento che ha ignorato la mia natura, i miei equilibri ecologici, la mia identità paesaggistica. Un intervento autorizzato con una semplice scia, come se un luogo così delicato potesse essere trasformato con procedure leggere. Come se fosse uno spazio vuoto qualunque e non un sistema ambientale complesso. Le indagini avviate hanno rivelato irregolarità, omissioni, sottovalutazioni. Nel 2024 il cantiere è stato sequestrato. La Cassazione, pochi mesi fa, ha confermato che costruzioni così alte e così impattanti non possono sorgere senza adeguata pianificazione, senza un disegno urbanistico che rispetti la città e chi la abita. È un principio semplice, ma spesso dimenticato. Non si costruisce dove e come si vuole. Si costruisce dove ha senso per tutti, non solo per qualcuno. Così, tra me e Piazza d'Armi, oggi scorre un filo invisibile. Siamo due luoghi diversi, nati da storie diverse, ma accomunati dallo stesso destino. Essere considerati spazi sacrificabili anziché beni comuni da custodire. E la città ogni giorno è chiamata a scegliere su quale strada seguire. Io continuo a crescere, i miei laghi brillano, i miei boschi respirano, i miei sentieri accolgono chi cerca l'aria, l'acqua e il silenzio. Ma so che tutto questo può durare solo se viene riconosciuto come valore, non come ostacolo. Solo se la legalità urbanistica non è una formalità, ma un difensore del futuro. Solo se l'idea di città resta ancorata a ciò che rende Milano vivibile, natura, memoria, relazioni, paesaggio. Io sono il Parco delle Cave. Parlo per chi cammina tra le mie acque, per chi fa crescere un orto, per chi pedala tra i miei boschi. Parlo anche per il Parco Piazza d'Armi, che condivide con me lo stesso orizzonte. E insieme diciamo una cosa semplice ma necessaria. La città appartiene a chi la vive e non a chi la consuma. E il futuro si costruisce mantenendo ciò che ci tiene vivi, non cancellandolo. Ringraziamo Licia. Mi sono permesso di dire il nome delle giardiniere che in realtà fanno vedere che si può cambiare la realtà e che qualcosa di buono si può fare, qualcosa di positivo esiste. E quindi appunto che era il vecchio proponimento, sì, era il vecchio proponimento nuovo di Pillola Rossa. Era ce l'ha spiegato bene settimana scorsa. No, sì, ma dico anche l'intento di Pillola Rossa di dire delle cose belle e proporre qualcosa di positivo. Certo, e non che solo non commentare le tragiche notizie, sto parlando troppo e non facciamo come gli Schiantos che si lamenano alla luce di ste cose. No, non ci lameniamo, è tranquillo. Radio. Se impazzisco mi sveno, non posso farne a meno. Io me la meno, io me la meno. Con un pieno di fieno io divento più scemo. La vecchiaia non temo perché io me la meno. Io me la meno. Basta! Non voglio più basta. Odio la posta. Sei proprio una bestia! Basta!

di Extrema con Cilo e Bugau. Ciao de Bugau. Questi erano i thrash metal anni 90 della Milano metallara. Ragazzi, vi salutiamo a tutti quanti, i nostri 5 ascoltatori fatidici. Allora, 2 erano in Alaska, poi c'era quello in Nuova Zelanda e gli altri 2 che sono tra Rogoredo e Parmacotto. Ma Rogoredo ce n'è 3 adesso. Adesso ce n'è uno, siamo a 5. Salutiamo. E c'è la nostra Sara che insomma c'ha... Ragazzi, adesso i contributi, cioè, senza fare nomi, i contributi degli ospiti che sei, cioè, li abbiamo già detti. Volevi dire una cosa invece, presentare? Allora, abbiamo introdotto, perché siamo un programma in continua evoluzione, la rubrica di Valentina, che cosa deve fare? Declama le sue poesie e... Dopodiché c'è Salutiamo Ulisse contro tutti, ragazzi. Che sta arrivando e rientra quest'anno. E rientra la grande. Ciao, ciao. Ci tagliano. Bella. Ciao a tutti. Alla 11. Gli ascoltatori di Radio ZAM, vi accolgo nella mia sfera poetica, dove potete ascoltare i miei scritti del giorno. Ho preparato una sequenza che ho intitolato Poesie da bar. Quindi immaginatevi boccali di birra, calici di vino, luci colorate tra i riflessi delle bottiglie in esposizione, che dal verde luminoso si dipingono di rosso e di blu, lunghi banconi, aerei sguardi in lontananza, e perché no, donne con la guépière, forestieri a caccia di fortuna, e i classici habitué, che scrivono la loro storia ogni giorno tra le pareti dei nostri locali notturni cittadini. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. Poesie da bar. Ci sono poesie da bar che galleggiano sotto la superficie delle calze, nascoste quali stigmate di un desiderio che mai smette di essere puro e senza pensare rimbalzano sulla superficie degli oggetti, incoraggiando l'anima ad essere viva ed esplodere a metà dell'esistenza per morire alla fine della carta. Telecamera nascosta. Si atteggiano da gran signore sugli sgabelli dietro il banco, chi con charme oppure no, ma entrambe con la linea di rossetto sul bordo del bicchiere mezzo vuoto. Trucchi di donne, dal già noto passato, attendono un'offerta libera, incatenate a se stesse. Si atteggiano a Madame francesi, con la sigaretta dalla lunga evanescenza, sullo sfumare del momento. Come sapessero dell'occhio magnetico tra il whisky e il contrò. Musica di frontiera. Nudo tra gli specchi, nudo desiderato berlinese, vestito con lo sguardo che consola dentro un bar, i frequentatori o accoglie fugaci passeggeri inaspettati forestieri nel suo slalom quotidiano insediato dell'eros che lo trascina sulle tavole spoglie e le sedie vuote tra lancette di orologio che percorrono le sfide del presente nelle luci di fuori e di dentro il nostro futuro. Nella Babele epocale. Nella Babele epocale sembra carnevale. Un ragazzo futurista disegna l'astratto sul petto in verticale, un motivo da farsi tatuare. Una donna con 2 ombrelli e un cappello piumato mostra il suo abito a coda, con lo sguardo perso dietro una retina. Purgatorio in cui qualcuno dallo stile texano sorride suadente, mentre una modella allo specchio cerca di essere seducente. Dillo la rosa, voi la verità. Dillo la rosa,